恰恰恰，恰恰恰，恰恰恰。 Spendula cadutamina lanciali, gatto con l'anfetamina lanciali, pizzeria da Elenina lanciali, eschilo, escolo, gulp, cia cia cia, spack, catering, spack, catering, spack, catering, spack, oppure back, Barbara back, Barbara back, Barbara back, ancora but, please but, but. Lisci Bartut, infine Bom, Simon Le Bom, Simon Le Bom, Simon Le Bom. Cia cia cia. Ehi, guarda là, sai qual è la novità? Balla con noi postmoderno. Cia cia cia. La nuova moda di tutta la città. Foscolo, fischialo. Cia cia cia. Spack, catering, spack, catering, spack, catering, spack. Oppure Bach, Barbara Bach, Barbara Bach, Barbara Bach. Ancora Dut, Brigibardo, Brigibardo, Brigibardo. Infine Bom, Simon e Bom, Simon e Bom, Simon e Bom. Ciao, ciao, ciao. Grazie.